Parliamo di lavoro. L'indagine di INAPT dal titolo Il lavoro di uomini e donne in tempo di Covid-19, una prospettiva di genere, è un'indagine di tipo qualitativo e ha l'obiettivo di osservare, in chiave di genere, i diversi aspetti del lavoro di uomini e donne nel contesto dell'emergenza sanitaria causata dalla pandemia. In particolare, un modulo dell'indagine esamina il passaggio dalla fase 1, quella del lockdown, alla fase 3, quella del ritorno al lavoro, per verificare come è avvenuta la transizione e se ha comportato differenze tra i lavoratori e le lavoratrici, sia dipendenti sia autonomi. Diverse altre ricerche in questi mesi si sono concentrate sul periodo del lockdown, con riferimento al target femminile, e hanno confermato l'aumento del carico di lavoro e di cura, non solo per chi non lavora, ma anche per chi si trova in quello che viene chiamato smart working, e che in realtà rappresenta invece una delle diverse forme di lavoro da casa, con i suoi pro e contro. La chiusura delle scuole, come hanno segnalato altre indagini, ha poi esasperato la tradizionale asimmetria di genere nella cura dei figli e ha messo la famiglia di fronte alla sfida della didattica a distanza. E di qui le considerazioni note sul doppio carico di lavoro delle donne con figli o persone bisognose di assistenza a carico. L'indagine svolta da INAPT e prossima alla conclusione si concentra invece sul momento più delicato della vita personale e lavorativa di uomini e donne. La fine del lockdown e la progressiva ripresa di un regime di vita che non è però il ritorno alla precedente normalità. L'assunto di base dell'indagine è quindi che, finito il lockdown, siamo di fronte a un'ampia fase di transizione che porta non solo a una ripresa dell'attività produttiva lavorativa, ma anche a una nuova fase della convivenza nei nuclei familiari e in società, e inoltre a una riorganizzazione del lavoro e della vita sociale. L'Istituto per l'analisi delle politiche pubbliche ha inteso così verificare se la ripartenza è stata un'occasione per impostare modalità nuove di conciliazione vita-lavoro, o se invece ha confermato le precedenti e poco eque suddivisioni di mansioni e responsabilità tra uomini e donne. Parliamo di lavoro con INAPT come ogni mercoledì ormai, perché è un appuntamento che già abbiamo presentato in diverse occasioni. Quest'oggi parliamo di conciliazione vita-lavoro e devo dire che, come ha segnalato Deborah prima dell'aggiornamento dai mercati finanziari, la prima parte della trasmissione ci ha dato un assist fantastico. Non l'avevamo preparato, ma forse se l'avessimo preparato non sarebbe uscito così bene, viene da dire, perché Eleonora Voltolina della Repubblica degli Stegisti ci ha detto: guardate, per la prima volta vediamo un disallineamento tra tirocini per ragazze che calano del 4%, tirocini per ragazzi che invece aumentano. Quindi in un crollo generalizzato dei tirocini, però si sono difesi meglio, viene da dire, quelli destinati ai maschietti meno gli altri. Siccome parliamo di conciliazione vita-lavoro, ai tempi del Covid e appena finita la quarantena, perché abbiamo l'opportunità di presentare in anteprima, cara Deborah, ben due ricerche che si stanno ultimando proprio in sede all'Istituto Nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche, allora sottoponiamo questo dato subito a due esperti. In particolare do il benvenuto a Valentina Cardinali, ricercatrice INAPT, che è responsabile del gruppo di ricerca Prospettiva di genere nel mercato del lavoro e nelle politiche pubbliche. Quindi diciamo che più in tema di così non riuscivamo, dottoressa Cardinali. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie a voi. Allora, la vostra ricerca sta analizzando, perché ancora non è ultimata, credo che sarà ultimata per la fine del mese di ottobre, giusto? Sì, esatto. La vostra ricerca sta analizzando che cosa è successo quando, diciamo così, ci hanno liberati dal lockdown, quando è finita la quarantena, il confinamento obbligatorio, e siamo tornati, magari parzialmente, magari non tutti, al lavoro, ai posti di lavoro. Cosa è successo dal punto di vista della conciliazione vita-lavoro, delle questioni di genere, donne, uomini? Come sono andati i meccanismi? Che cosa sta emergendo? Sì, dunque, un periodo questo abbastanza delicato. Abbiamo voluto posizionare la ricerca proprio nel periodo più difficile, quando parte qualcosa che si sa dove inizia e non si sa dove va a finire sostanzialmente. E la fine del lockdown e la ripresa di un qualcosa che non è un ritorno alla normalità, è un qualcosa che, come vediamo, tutti i giorni si sta costruendo e va, diciamo, avanti di decreto in decreto. È una fase complessa, è una nuova fase di convivenza sociale, una ripresa di attività produttiva, ma c'è anche una riorganizzazione della vita sociale da tenere in conto. Per cui, come ogni processo sociale, questa fase non è neutra. Ha ricadute diverse su uomini e donne, un po' come tutti i processi sociali, per come sono vissuti, interpretati e ricevuti dalle diverse categorie di destinatari. Ma in questo momento è particolarmente importante adottare quello che l'Unione Europea chiama gender assessment, cioè mettere le lenti del genere, cioè guardare i fenomeni guardando a che ricadute hanno su uomini e su donne, perché è questo il momento di costruire politiche just in time, cioè soluzioni, valutazioni, insomma è una situazione abbastanza dinamica che va osservata e tamponata per quanto possibile. Quindi noi, inserendo la ricerca proprio in questo preciso momento di riavvio di qualcosa, andiamo a leggere i cambiamenti e, come giustamente anticipava lei, su uomini e donne la situazione è in realtà assolutamente diversa. Che cosa accade? Diciamo che questa è una ricerca ovviamente di carattere qualitativo, è stata rivolta a uomini e donne di più di 18 anni, occupati sia dipendenti che autonomi e indipendenti, online secondo la modalità codificata praticamente in questo periodo, e sostanzialmente su le 780 interviste che abbiamo effettuato, con una percentuale 80-20 di maschi, femmine, dipendenti e indipendenti, che cosa è venuto fuori? Le prime anticipazioni di quello che, come ricordava lei, sarà un rapporto disponibile a breve. Allora, uno, gli anglosassoni direbbero men first, cioè che cosa è accaduto in questa fase di transizione? Prima gli uomini sono rientrati prima e di più al lavoro fuori casa, nonostante poi il profilo contrattuale magari fosse in qualche modo analogo. Perché? Che cosa è successo? È successo che incide tantissimo il tema che poi è il tema di oggi, no, della trasmissione, cioè la conciliazione vita lavoro, ovvero come il cosiddetto care burden, ovvero i carichi familiari pesano e incidono sulla partecipazione al lavoro. Perché noi spesso diciamo, scusi la interrompo, ma solo per precisare, prego, questo care burden non è solo la cura dei figli, ma comprendiamo anche ad esempio la cura dei genitori, la cura dei congiunti che possono essere bisognosi di assistenza. Da cui deriva il concetto della generazione sandwich, nella quale ci troviamo un po' tutti questi, noi a questo consesso di questa mattina, ritengo, dottoressa Cardinali. Sì. Assolutamente sì, benvenuti nella generazione sandwich, sì, che comprende tutti, ma prevalentemente le donne tra i 35 e i 45 fino ai 54 più o meno, in cui proprio effettivamente come un panino siamo schiacciati dal lavoro di cura e assistenza a figli da un lato, anziani o bisognosi dall'altro, una compressione che a volte è simultanea, e questo avviene solo sul panino femmina, ahimè. Il panino maschio ha una componente, diciamo, ha un effetto diverso. Ma perché è importante questo che lei stava ricordando? Perché il care burden, quindi i carichi familiari, sono uno dei fattori che determinano l'attuale configurazione nel mercato del lavoro, perché noi non dimentichiamoci che siamo comunque un paese che ha il tasso di occupazione femminile più basso in assoluto, ma siamo anche l'ultimo paese per tasso di fecondità. E nonostante questo quadro quasi drammatico, la presenza dei carichi familiari continua ad avere un impatto dirompente sul lavoro delle donne, sia a livello nazionale sia, come conferma la nostra ricerca, vi dicevo, se in una fase di transizione, laddove c'è una possibilità di scelta all'interno della coppia, dell'ordine del rientro al lavoro, noi abbiamo verificato sui rispondenti che molto spesso l'ordine di chi rientra prima è il risultato di un accordo familiare, e questo accordo familiare, ci dicono le intervistate. Voi in realtà utilizzate il concetto dell'accordo con il partner, che secondo me è ancora più sottile. Esatto. Perché diciamo che da un punto di vista proprio metodologico, noi abbiamo intervistato sia uomini che donne facendo rispondere a loro su quello che è il loro vissuto personale e su quello che è il loro vissuto di coppia. Quindi abbiamo incrociato effettivamente come la percezione di uomini e donne rispetto a questo tema e il vissuto di uomini e donne rispetto a questo tema in questo periodo di transizione si stia sviluppando. E purtroppo da questi incroci è venuto fuori che i risultati relativi sia ai rispondenti maschi che ai partner maschi sono similari, idem per la questione diciamo di genere femminile. E questo che vuol dire? Come dicevo, insomma, nel momento in cui c'è da fare una scelta, chi ritorna a lavorare fuori casa e chi resta a casa ad occuparsi del carico familiare, uno o plurimo, come vogliamo definirlo, sono prevalentemente le donne. C'è anche un altro grande convitato di pietra in questa conversazione, dottoressa Cardinali, le do l'assist per continuare dopo la nostra pausa, che anche lo stipendio, se ce n'è uno che pesa di più, è quello che naturalmente ha la prevalenza. Anche chi torna al lavoro, quello che guadagna di più. E guarda caso un po' chi è, quasi sempre. Non capisco perché mi guardi così fissamente. Adesso faremo subito una verifica, parliamo con l'ufficio personale. Intanto saluto, chiedo un attimo di pazienza anche al dottor Alessandro Rizzo, che è pure in collegamento con noi, ricercatore INAP anche lui. Lo sentiremo nella seconda parte, nell'ultima parte della trasmissione. Stiamo parlando di conciliazione vita-lavoro con INAP, perché è lo spazio Parliamo di Lavoro con INAP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, e ne stiamo ragionando basandoci su due ricerche che ancora non sono concluse, quindi vi stiamo anche dando insomma delle indicazioni in anteprima. Ci aiutano la responsabile di un gruppo di ricerca proprio sulle prospettive di genere, la dottoressa Valentina Cardinali, collegato con noi. Gli do il benvenuto e gli chiedo ancora un attimo di pazienza. Il dottor Alessandro Rizzo, pure ricercatore INAP, sempre nella struttura Lavoro e Professioni. Buongiorno dottor Rizzo, grazie della sua pazienza. Buongiorno, d'accordo, aspetto silenziosamente. D'altra parte, anche per galanteria, visto che stiamo parlando di conciliazione vita-lavoro, almeno un po' di galanteria, quindi la precedenza alle donne è dovuta. Però mi interessava riprendere, Deborah, questo spunto che tu hai dato proprio in chiusura. Le dinamiche retributive continuano a essere spostate a favore degli uomini, ma questo, dottoressa Cardinali, perché c'è un problema normativo? Abbiamo bisogno di qualche ulteriore spinta, restyling di leggi, di applicativi normativi e qualcosa del genere? Assolutamente no, noi siamo un paese in prima linea per quanto riguarda l'apparato normativo. Nello specifico dei differenziali retributivi di genere è un tema che ci porterebbe lontano, lontanissimo, però ha una sua attinenza con il tema della conciliazione vita-lavoro. Il differenziale retributivo si forma in tante parti della vita professionale, per cui non basta una legge che dice non bisogna effettuare disparità retributiva, no, perché la legge non serve, bisogna andare a vedere le dinamiche. Molto spesso in che modo la conciliazione vita-lavoro squilibrata, diciamo così, tra uomini e donne incide poi sullo stipendio, sulla retribuzione finale, e incide perché si sa che statisticamente le donne lavorano meno ore e molto probabilmente anche per esigenze di conciliazione, quindi meno ore lavorate, meno monte salariale. Queste meno ore lavorate non derivano solamente dai tanti contratti part-time, ma anche dal semplice fatto che nell'orario di lavoro le donne fanno meno straordinari e hanno meno permanenza al lavoro, perché le esigenze di conciliazione, che culturalmente e organizzativamente sono ancora a carico prevalentemente femminile, non premiano quel concetto di fedeltà aziendale legata alla presenza, che è ancora purtroppo tipico di una cultura organizzativa come la nostra. Per cui sostanzialmente rivedere in prospettiva il concetto di conciliazione, ragionare seriamente sul tema della condivisione non solo da un punto di vista proprio culturale ma da un punto di vista di misure e di politiche, potrebbe portarci un passo in avanti per risolvere sia i problemi di partecipazione al mercato del lavoro delle donne, quindi più occupazione, sia per una più equa distribuzione reddituale e salariale da questo punto di vista, sia molto probabilmente anche una migliore qualità della vita sociale rispetto a una divisione più paritaria. Dottoressa Cardinali, per concludere con un flash, se ce la facciamo, queste tematiche ci piacciono, torneremo ad invitarla molto volentieri. Lo smart working che diventasse strutturale, finirà questa emergenza prima o poi, anche questo strumento è stato utilizzato in regime di emergenza, diciamo così, diventasse strutturale come prassi di rapporto di lavoro consolidata, potrebbe contribuire a livellare definitivamente i livelli degli stipendi? Ci vuole tutta una riflessione molto seria e molto non affidata agli slogan rispetto a questo tema, che è una questione importante rispetto a quello che stiamo trattando oggi, ad esempio il tema della conciliazione vita-lavoro. La sconfitta più grande sarebbe immaginare un'adozione a regime dello smart working come strumento di conciliazione, perché sarebbe l'ennesima gabbia e segregazione per le donne, che si ritroverebbero di nuovo ad assumere l'onere che già hanno del lavoro non retribuito in più all'interno di un orario di lavoro che non esercitano neanche in ufficio ma dentro la propria abitazione. Quindi ci vuole molta attenzione rispetto a far passare il messaggio giusto. Lo smart working può essere una grande prospettiva da un punto di vista per migliorare l'organizzazione, per migliorare il management per qualità e non per computato sulla semplice presenza in ufficio, ma attenzione a non immaginarlo come una soluzione facile che rilasci di nuovo la divisione del lavoro di cura, quindi a carico, certo, delle donne, e non distingua più tra retribuito e non retribuito. Sarebbe un fallimento proprio delle politiche economiche di questo paese. Allora, chiudiamo con un'altra ricerca, Deborah, perché la ricerca curata dalla dottoressa Cardinali è Il lavoro di uomini e donne in tempo di Covid, una prospettiva di genere, prospettiva che abbiamo visto non essere purtroppo così rosea. Un'altra ricerca è invece le policy di contrasto all'emergenza e di sostegno alla ripresa. Una prospettiva di genere, ma la cosa interessante è che è in chiave europea. Quindi, dottor Rizzo, da questo confronto che è tuttora in corso, cosa sta emergendo? Allora sì, esatto, appunto abbiamo cercato di capire già a partire dalle primissime battute, quindi da marzo in poi, che cosa appunto i vari paesi all'interno dell'Unione Europea hanno fatto per tentare di contrastare l'emergenza del Covid. Oggi ci concentreremo in particolare su ciò che hanno fatto appunto per la cura dei figli, degli anziani e delle persone con disabilità, insomma di tutta la platea di persone che si sono trovate sia in casa che lavorando fuori casa a dover fare i conti con le necessità di cura. Dottor Rizzo, abbiamo solo due minuti, le chiedo sintesi con la promessa che la reinvitiamo sicuramente per potercela raccontare nel dettaglio. Esattamente, allora due elementi. Anzitutto le risposte sono state appunto una conferma degli strumenti che già conosciamo per la conciliazione e per la cura. Questo ovviamente per ragioni di tempo, perché si è dovuto rispondere in emergenza e perché per certi versi sono comunque soluzioni consolidate. Quindi le risposte sono state sostanzialmente la possibilità di avere dei congedi dal lavoro variamente retribuiti, una gamma che va dal 60 all'80% della retribuzione, questo sia per curare appunto i figli che le persone che si sono trovate appunto ad avere a che fare con la gestione della cura delle persone anziane e delle persone con disabilità. Ovviamente il panorama europeo è molto diversificato per quanto riguarda i regimi di welfare, la cultura di genere di ciascun paese e lo stato delle finanze. Quindi sostanzialmente abbiamo avuto appunto risposte tempestive e si tratta di capire poi ovviamente che cosa è successo concretamente, se queste risposte poi sono state efficaci effettivamente, in che misura all'interno dei nuclei familiari, quindi nella vita concreta. Precisissimo. Questo è stato il quadro. Grazie. Allora, dottor Alessandro Rizzo, visto che la vostra ricerca dovrebbe concludersi più o meno alla fine di novembre, noi la prenotiamo già da ora, così verrà a raccontarci in dettaglio i risultati. D'accordo, molto volentieri. Grazie a Valentina Cardinali e ad Alessandro Rizzo, ricercatori INAP, su delle tematiche che ci stanno molto a cuore, così come ci stanno a cuore i mercati finanziari. Quindi io, caro Mauro, ti do appuntamento a domani per la consueta puntata settimanale di Investire Informati. Sei contento? Ci sarò. Bene, a domani e grazie a tutti. Programma realizzato in collaborazione con INAP, in qualità di organismo intermedio del Fonus PAO, con il contributo del Fondo Sociale Europeo.